la parola sola o due per dire che siamo molto contenti di avere qua questa sera Alberto Prometti, che dialogherà con Rumin 4, Federico, per presentare il suo nuovo libro, 108 metri. Alberto è già venuto a VAG in altre occasioni a presentare il suo libro precedente Amianto, durante la montagna dei libri contro la TA, poi è venuto a una reading ai Giardini Giusti, qua in via Barottini, quando raccontò quella storia dell'oste antifascista che costrinse un gruppo di squadristi a bere il suo vino. E quindi stasera ci racconta invece appunto di sempre di lavoro, storie di lavoro, di lavori, in un ambiente diverso da quello appunto della Toscana, della Cina. Poi però il libro parla anche di questo, insomma, della Serie di Piombino, della sua terra di origine. Chi di voi l'ha letto il libro? Io sono letto, è veramente un bellissimo lavoro, insomma, cioè, è scritto molto bene, è avvincente, è una scrittura secondo me utile. Alberto si definisce uno scrittore da sgambata, nel senso che va in giro per raccontare storie in un modo che dovrebbero fare i giornalisti che oggi non fanno più, ma oltre a raccontare queste storie ci mette anche nel racconto un entusiasmo, una capacità di coinvolgere che è molto potente. E quindi chi non l'ha letto vi consiglio di prenderlo questa sera il libro e di acquistarlo, perché ne vale la pena. Lascio la parola a loro. Comincia Federico. Grazie, buonasera a tutti. Aggiungerei alle parole di Valerio un'altra definizione, che questo secondo me è un libro anche divertente, proprio ti diverti a leggerlo, anche se racconta storie di merda. In senso letterale, non che siano brutte, cioè di merda nel senso che a un certo punto ci sono proprio scene, diciamo, in cui si sturano cessi, ecco. E la grande capacità di Alberto, secondo me, dal punto di vista narrativo è proprio quella di è questa levità, questa capacità di raccontarti anche cose molto pese, ma con una leggerezza e uno stile scanzonato, ironico, che è davvero... io trovo invidiabile, ecco, mi piacerebbe riuscire a raccontare le cose che mi capitano nella vita con questa stessa, con questo stesso spirito, diciamo. Si può dire che 108 metri sia il sequel o forse addirittura il prequel di Amianto, le due cose insieme. Sì, è vero. Sicuramente andrebbero letti, ecco, appaiati questi due libri, si richiamano l'un l'altro. Se in Amianto si raccontava prevalentemente la storia di Renato, del padre di Alberto, e ovviamente era anche un pretesto per raccontare una grande trasformazione nel mondo del lavoro in Italia, l'uscita, diciamo, del lavoro operaio dalle fabbriche e il farsi freelance, diciamo, di un certo tipo di lavoratore, ecco, tra gli anni 80-90, e poi ovviamente la malattia, la malattia dell'amianto, di cui appunto Renato poi muore. Qui si passa in qualche modo il testimone alla generazione successiva, insomma. Alberto parla di sé e della propria esperienza, una delle sue tante esperienze, cioè un anno vissuto proletariamente in terra d'Albione, nel Regno Unito. Lascia il paesello, diciamo, lascia la Toscana profonda, saluta Renato, saluta sua madre e va a vivere questa esperienza lontano da tutto, all'avventura. Quindi è effettivamente un romanzo d'avventura, a tutti gli effetti. Diciamo, c'è un eroe che parte, compie un viaggio, gli succedono tutta una serie di peripezie e poi torna. Schema, direi, proprio classicamente inteso. E vi assicuro che che così lo si legge, ecco, con questa stessa, con lo stesso piacere con cui si legge un romanzo d'avventura. E non a caso è un libro che poi è pieno anche di citazioni, in questo senso, di citazioni letterarie in questo senso. Una presenza molto forte in questo romanzo è quella di Robert Louis Stevenson, per esempio. La scelta di Alberto è quella in qualche modo di dare ai personaggi che incontra in questo viaggio appunto un'eco letteraria, ci ricordano in qualche modo dei personaggi letterari, in particolare ce n'è uno dei primi mentori, ecco, che se possiamo chiamarlo così, che lui incontra in una pizzeria italiana a Bristol, che viene chiamato proprio Long John Silver, è proprio come il pirata dell'Isola del Tesoro, e svolge anche un po' la stessa funzione nei confronti, diciamo, del giovane emigrato che è appena giunto a far parte della ciurma, appunto, è lo stesso rapporto che ha Silver con Jim nel romanzo di Stevenson. Però è un personaggio quasi altrettanto grandioso nel suo modo di porsi, diciamo, un po' guitto, ma al tempo stesso anche maître à penser, mi viene da dire, maestro di vita, e poi ha una lingua fantastica, parla un grammelot, perché ovviamente è una ciurma composita, sia chiaro. Il valore aggiunto del pizzaiolo, che è proprio italiano, ovviamente al ristorante, alla pizzeria fa comodo, il livello di sfruttamento ovviamente è devastante, ma c'è appunto il grammelot di Silver, di cui volevo darvi un saggio per farvi capire anche il lavoro sulla lingua che Alberto ha fatto in questo libro. E lui parla appunto questa lingua meticcia, perché ne ha viste tante, ne ha visti passare tanti da tutte le parti del mondo. Lui stesso non si capisce bene da dove venga, cioè è veramente un bucaniere, cioè uno che ha viaggiato in mille porti ormai a una certa età. E a un certo punto spiega al giovane apprendista come si fa il ragù. La ricetta di Long John Silver in versione cuoco, che poi del resto era che faceva Silver, era il cuoco di bordo. Esatto. E la spiega così, ecco: down in the South Italy, Cuba, se hace el ragù alla napolitana, verdad? Not minced meat like bolognese, instead metti pezzi di carne intera, isn't it? Mi diceva Silver, appoggiandosi alla sua stampella. Poi sistemava i lunghi capelli bianchi dentro il cappello da chef e continuava in quella strana lingua meticcia: onion o cebolla, che sia, you put it into the pan when it looks like gold. Quando la cipolla è dorata? Ma oui, bien sûr, il fratello le venire, il soffritto. Then you add bacon and involtini, mas pork, sausages and meatballs, then tomato sauce like the rain. Like the rain? Ma oui, come se piovesse, così diceva in italiano. About tomatoes, Tondo, Roma e San Marzano are the better ones, verdad? But in any case, feel free to do lo che quieras, compa. Fai un po' come cazzo ti pare. Con Silver né re né ricetta. That's my own ragù alla napoletana, fucking hell. Others do the otra maniera. I don't give a fucking shit about. Ecco, questa parlata dà un po' la cifra, secondo me, della umanità che il protagonista incontra in questo suo viaggio, che parte da una pizzeria, ovviamente, ma poi attraversa altri luoghi di lavoro. Non so se in ascesa o in discesa, così, insomma, diciamo, uno standard basso lineare, sì. Ecco. Nel senso che il passaggio successivo è a un centro commerciale. Meglio scelsi i posti degli italiani. Tipo. Ecco, quando lui si trova a contatto, ad esempio, con un altro maître à penser che gli tiene un master in sturacessi. Tecniche di sturo. Tecniche di sturo manuale. Ed è un omone gigante, Brian si chiama, è un gigante enorme, gentile, però che gli tiene una specie di master, sono lì nei cessi di questo grande magazzino, di questo centro commerciale, con la gente che entra, esce, fa tutto quello che deve fare, e gli racconta appunto come si fa, come tutti i principi di idraulica anche eccetera, gli dà delle dimostrazioni anche abbastanza disgustose, però lui ha acquisito una tecnica nel corso degli anni, nel tempo, quindi ormai è andato oltre, insomma è veramente un grande, ecco, nel suo campo. E poi c'è l'approdo invece a una, diciamo, una casa vacanze per studenti, una specie di villaggio vacanze per studenti dove si studia, si fanno attività ricreative, qui di nuovo nelle cucine, con una ganga di malfattori di piccolo, medio cabotaggio che si sono riciclati, questa è veramente una ciurma un po' piratesca effettivamente, che si sono riciclati appunto venendo da varie storie, varie provenienze, molti dei casi, molti di quali in questo caso autoctoni proprio, sono inglesi, quindi working class proprio locale, con un breve passaggio però per la raccolta lamponi, un breve passaggio, non pomodori in questo caso, tanto si è a terra d'Albione, però molto breve, perché lì il protagonista si fa licenziare veramente in un battibaleno, ecco. Questo è il viaggio, diciamo, adesso a grandi linee, ovviamente non ve lo voglio raccontare tutto perché sennò vi tolgo assolutamente il gusto della lettura, ma è un viaggio un po' anche inferico, se vogliamo, nei bassi fondi proprio del mondo del lavoro in Gran Bretagna. La Gran Bretagna che è il paese, come dire, all'avanguardia nella neoliberalizzazione del mondo del lavoro, fin da quando appunto la signora Margaret Thatcher salì al potere alla fine degli anni 70 e per tutto il corso degli anni 80 avviò in qualche modo proprio là, diciamo, la grande trasformazione neoliberista. Ed è un personaggio infatti che ritorna in questo libro. Maggie Thatcher è una sorta di idolo al quale i boss, i capi, i quadri intermedi dei luoghi di lavoro frequentati dal protagonista portano quasi degli ex voto, cioè sono proprio la idolatrano, hanno degli altarini, a un certo punto in una visione un po' allucinata lei compare con una sorta di Dea Kali, con un teschio, una collana di teschi di operai al collo, in altri casi la concretizzazione, la visualizzazione del male, dell'idolo maligno, invece è chiesta e presa in prestito da Lovecraft, è un idolo mostruoso, spesso c'è un episodio addirittura, c'è la magione, diciamo, dove vive il boss, ecco, della casa vacanza, diciamo, che si chiama Cthulhu Manor, ovviamente un nome inventato che richiama ovviamente Cthulhu, il mostro di Lovecraft. Dicevo all'inizio, ci sono molte citazioni letterarie appunto che Alberto usa per dare, molto probabilmente anche per sottrarsi, diciamo, un tipo di narrazione prettamente realistica che forse avrebbe reso un po' più tetro, ecco, un po' più schiacciante e pesante questo tipo di racconto, che invece, come dicevo, risulta fondamentalmente arioso, divertente, e ti fa anche montare un sano incazzo, ecco, cosa non scontata e non automatica, perché invece storie del genere potrebbero anche farti venire una grandebre, ecco, se raccontate nella maniera sbagliata. Ma sono appunto storie estremamente realistiche, nonostante queste presenze, queste eco letterarie, questi momenti un po' allucinati appunto del protagonista, che non si capisce se davvero vede certe cose o non le vede. E ci raccontano, diciamo, di una realtà che forse abbiamo un po' accantonato, perlomeno che sicuramente sfugge ovviamente ai riflettori e al discorso dominante. Innanzitutto il fatto che l'emigrato in questione sia un italiano non mi sembra indifferente, non mi sembra assolutamente secondario. È la storia di un migrante italiano che però non è un cervello in fuga, perché l'emigrazione italiana che ci viene raccontata oggi è questa, è quella colta, li abbiamo formati, no, nelle nostre scuole, nelle nostre università, poi vanno. Sono altri che capitalizzano, no? Quindi l'emigrazione è fondamentalmente universitaria o comunque altamente specializzata. Qui è uno che, come dire, pur essendo scolarizzato, pur avendo fatto un liceo, quindi figlio di operai, che però si è si è scolarizzato, eccetera, però parte all'avventura, come dire, con l'unico capitale a disposizione delle sue mani, in qualche modo, e va a fare lavori, come si suol dire, ultra umili. Qualche tempo fa, mi ricordo qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ero a Niscemi in Sicilia e mi facevano notare che tutte le settimane dalla piazza del paese partiva una corriera per la Germania piena di ragazzi, che sembrava una storia da anni 60, invece no, succede, mo, adesso, e non sono certo tutti, ecco, laureati pieni di master che vanno a fare fortuna, ecco, nelle università tedesche, credo che vadano a fare più o meno i lavori, appunto, che ha fatto Alberto in Gran Bretagna. Quindi da un lato c'è questo, c'è il racconto del fatto che esiste una migrazione di questo tipo, e del resto la tocchiamo con mano ogni volta che andiamo in una grande capitale europea. Quanti italiani stanno là, no? 60.000 a Londra, 50.000 a Barcellona, eccetera, eccetera. Sono tutti architetti, sono tutti lavoratori all'università, professori, non, evidentemente no, ecco. Fanno, molti di questi fanno appunto quei lavori lì, fanno i camerieri, fanno gli inservienti, fanno i cuochi, i pizzaioli, eccetera, eccetera. Quindi da un lato c'è questo racconto di una cosa che, di una realtà, insomma, che non sfugge, diciamo, comunque non viene mappata. Dall'altro c'è oggettivamente e semplicemente anche il racconto dei lavori umili che sappiamo bene esistere, appunto, ma che facciamo finta che non esistano, ecco, sostanzialmente, e che molto spesso, come ben sappiamo, poi sono fatti da emigrati, in questo caso da un emigrato italiano in Gran Bretagna, ma insomma poco importa, ecco, qual è il paese di provenienza. Il punto è che questa massa, appunto, di persone che si muove, in realtà va, appunto, a foraggiare questo tipo di lavori sempre più umili, sempre meno sindacalizzati, sempre più, no, ricattati, eccetera, eccetera, man mano che si sfondano sempre di più le barriere che le controriforme neoliberiste avanzano. E dicevo, appunto, la Gran Bretagna in qualche modo è un avamposto di tutto questo, quindi è giusto, è topico, ecco, il fatto che si svolgano qui queste avventure, che sono anche avventure, se è chiaro, di resistenza in un certo modo, perché poi la capacità che ha Alberto è quella di dire: io vengo da una famiglia operaia, io sono stato cresciuto in una cultura operaia. Che cosa significa in questo caso? Non tanto film, letteratura, eccetera, c'è molta letteratura operaia citata qui, voglio dire, da Cartwright, da Sirito, eccetera, eccetera. No, la cultura è soprattutto il lavoro, cioè ciò che si tramanda, il know-how, il saper fare, la manualità, questa è primamente cultura, no? E lui viene da questo, cioè viene comunque, i conti, diciamo, che continua a fare sono quelli con la figura paterna e col mondo di provenienza, appunto, del padre in cui lui è stato cresciuto. Quindi è una lunga, come dire, è un lungo confronto, ecco, con la figura paterna, ma con tutto quello che questo comporta. Ecco, una cultura tramontata, evidentemente, eppure, come dire, la Toscana che lui ci racconta è una Toscana che non ha niente a che fare con l'immagine che possono averne, appunto, gli inglesi, non è il Chiantisher, è la Toscana di Piombino, è la Toscana in cui, dice lui, a un certo punto da 9.000 anni si estrae il ferro da queste parti, no? E lo si lavora, le fonderie, le acciaierie, 108 metri sono la misura di un binario, un pezzo di binario che usciva, appunto, dalle fonderie di Piombino. Quindi è proprio una Toscana quasi inferica, infernale, quella che ci viene raccontata, non certo quella, ecco, appunto, del Chiantisher, delle Pievi, quegli affreschi di Giotto, eccetera, eccetera. E viene messa in relazione, appunto, invece con questo mondo operaio britannico, trovando dei punti di contatto, nonostante la distanza e la diversità evidente di accento, incredibili, ecco. Eppure, appunto, lui dice, a un certo punto mio padre me l'aveva detto, c'è una sorta di, come dire, codice internazionale, ecco, c'è a un certo punto addirittura una specie di decalogo, vengono numerati, elencati, ecco, quali sono le regole, ecco, di comportamento che la cultura operaia ha tramandato, appunto, da padre in figlio, non ti fidare dei quattrinai, cioè quelli che hanno i soldi, comunque metti le spalle al muro quando ne vedi uno, occhio, che tutta una serie di come dire, regole, ecco, e consigli, insomma, che bisogna seguire. Quindi io ho trovato anche molto forte appunto il fatto che ci venisse raccontata questa storia qui, in un paese come il nostro, dove invece una letteratura working class scarseggia oggettivamente. Le citazioni appunto che si leggono in questo romanzo sono tutte, quasi tutte, insomma, dalla letteratura britannica, che lì invece una tradizione di letteratura operaia c'è e c'è tuttora. Quando ad esempio lui parla di Piombino, parla della città di ferro, Città di ferro è il titolo dell'ultimo romanzo di Anthony Cartwright, che è un autore che, oltre a condividere con noi due lo stesso anno di nascita, viene proprio dal Black Country, dall'ex distretto minerario britannico, e racconta nei suoi romanzi tutto ciò che è diventato quel distretto minerario dopo la fine delle miniere, delle acciaierie, eccetera, eccetera. E serpeggia tra queste pagine, insomma, la presenza di Cartwright è molto, molto forte, così come quella di altri autori. Quindi da un certo punto di vista è anche un libro originale, cioè che racconta delle robe che oggettivamente, in un modo che raramente, insomma, in Italia capita di leggere. Aggiungerei, insomma, che una nota, insomma, quasi personale, cioè io credo che chiunque si occupi di lavoro, per un motivo o per un altro, dovrebbe leggere questo libro. Nonostante sia un libro detto in cui ci sono delle cose, dei momenti allucinati, nonostante sia un libro divertente e non serioso, eccetera, però dovrebbe farlo, perché è veramente un libro che ti ricorda che i lavori di merda esistono ancora e li fanno in tanti. Ecco, io appartengo a una generazione, insomma, in cui negli anni 90 ci siamo un po' strafogati di un certo tipo di racconto, insomma, che diceva che ormai eravamo andati oltre tutto. Ormai il proletariato era diventato cognitariato, che il capitale in qualche modo avrebbe superato da sé, insomma, tutte le contraddizioni, ci avrebbero dato il reddito di cittadinanza, questo prima che, diciamo, ci venisse scippata questa parola d'ordine in tempi molto più recenti per significare qualcos'altro, eccetera, eccetera. C'era una sorta di think positive, insomma, wishful thinking, diciamo, un po' eccessivo. Ecco, un libro come questo ci ricorda, 20 anni dopo, che invece, appunto, c'è ancora chi deve infilare le mani nei cessi, ecco, per guadagnarsi da vivere, viene vessato, sfruttato, molto più oggi probabilmente che 30 o 40 anni fa, quando esisteva invece una forza collettiva di classe, una coscienza di classe molto molto sviluppata. C'è una strana similitudine in realtà con quello che succedeva invece 100 anni fa, molto probabilmente, perché appunto si è tornati indietro. E quindi è un po' tutto da rifare, per questo dico, chi oggi si occupa di lavoro, un sindacalista oggi dovrebbe leggere questa roba qui, ecco, innanzitutto perché forse si divertirebbe pure, ma gli verrebbero degli spunti, ecco, comunque è auspicabile che gli verrebbero, perché effettivamente questo è il terreno che andrebbe, come dire, sindacalizzato, è lì che si incontrano le contraddizioni vive. E concludo dicendo che c'è una forza in questo racconto, c'era anche in Amianto, ma in Amianto c'era, come dire, era anche una storia drammatica, insomma, senza dubbio. Qui c'è una evocazione della solidarietà di classe. Solo evocazione, perché poi è chiaro che sarebbe anacronistico, no, presentarla in maniera trionfalistica, eccetera. È chiaro che parliamo di sconfitti, ok? Ed è in una grande sconfitta che si muovono questi personaggi, e però al tempo stesso, appunto, chi viene dalle acciaierie di Piombino, chi ha avuto un certo tipo di background culturale, eccetera, riesce anche lì, anche in queste condizioni estreme, diciamo così, a trovare un principio di solidarietà di classe, un principio ancorché vago di autocoscienza, e insomma alla fine c'è quasi un piccolo inno, diciamo, proprio a questa forza genuina. Insomma, è tanta roba, ecco, secondo me. Io devo dire che mi è piaciuto molto e da collega l'ho anche invidiato molto. Ecco, mi fermo qui e do la parola a te. Grazie. Provo a ricapitolare e stendere alcune cose che hai evocato tu. Allora, il tema del linguaggio, innanzitutto, è centrale perché in qualche maniera il viaggio del protagonista è collegato a un'immersione in un linguaggio straniero sconosciuto, che poi in qualche maniera è anche forse l'unico bottino dell'isola del tesoro, cioè il linguaggio è l'unica cosa che riesce a portarsi via. E lui, io gioco con l'inglese quasi con la stessa maniera in cui si può, con uno spirito anticoloniale, lottare con la lingua del padrone, perché nell'inglese era la lingua per lo più appresa solo con i verbi all'imperativo, ecco, e qualche avverbio che dovevo comprendere senza replicare, per eseguire ordini lavorando in un centro commerciale. E poi l'inglese è la lingua che ho imparato pulendo le latrine, e alla fine però l'inglese è la lingua con cui guadagno il pane facendo oggi il traduttore. E maestri di inglese sono stati, nel primo inglese, quello creolo, appunto il pirata Long John Silver, con quell'interlingua, quell'argot, quel gramelò, quella mescolanza, che è anche un omaggio a un grande interprete delle lingue ibride, il Salvatore del Nome della Rosa. Quando io ero un ragazzetto e lessi Il Nome della Rosa, mi innamorai di Salvatore. E è anche un omaggio a un tentativo di reinterpretare il tema della lingua perfetta, che da linguista ha affrontato Umberto Eco, in chiave proletaria, sostenendo che la vera lingua perfetta non è quella pura dell'accademia, ma la lingua perfetta è la lingua ibrida dei migranti, cioè di quelli che sui luoghi di lavoro, nelle cuscine d'Europa o nei campi magari del sud dell'Italia, parlano un po' tutte le lingue del mondo mescolandole insieme. E quindi questo tema del linguaggio è fondamentale, perché dietro c'è anche un'acquisizione di competenze del protagonista, che è uno che nasce appunto in un ambiente working class, di classe operaia, dove le acquisizioni sono quelle manuali, no? La capacità di plasmare i metalli, di forgiare il ferro, e che invece si ritrova a padroneggiare una competenza che lì per lì all'inizio viene quasi vista un sospetto da colleghi, da compagni di lavoro del padre del protagonista, quella di saper fare le metafore, cioè di usare il linguaggio non in senso solo comunicativo, ma per costruire immaginari, per costruire mondi, per raccontare storie, ecco. Ed è quello che ho cercato di fare. Alla fine del suo viaggio, come ogni viaggio, il viaggio si chiude con un ritorno. Però non è il ritorno dell'eroe che arriva e rimette le cose a posto, che dice manda via i proci e si ristalla nel suo regno. E il viaggio, il ritorno è quello, il momento in cui il protagonista si rende veramente conto che il mondo che l'ha forgiato è completamente stato distrutto, che quel fantasma che l'aveva perseguitato in Inghilterra, la Lady di Ferro, la Thatcher, era già avanti, era già arrivata, e aveva già fatto strage del mondo operaio, e lui trova le ciminiere arrugginite, gli operai vecchi, ammalati, che fissano questi binari che hanno costruito le proprie mani, che oggi servono solo a mandare via i loro figli, di mandarli via verso l'aeroporto a prendere il primo aereo verso l'Europa del Nord. E il messaggio di un vecchietto, un vecchio operaio che aspetta il protagonista alla stazione, sembra quasi aspettarlo, è quello di cantagliela tutta la nostra storia, canta la soda. Cioè usa queste metafore per raccontarla, perché in qualche maniera questa è, se vuoi, è il compito che ti consegniamo, quindi è quasi un viatico che gli viene donato, no? Un messaggio, anche perché nel suo passato il protagonista del libro a tratti si è sentito separato, alienato dalla cultura che l'ha prodotto, perché c'è questo momento, c'è un capitolo di Beck che è l'unico, diciamo, veramente non ambientato in Inghilterra, in cui c'è il passato del protagonista con l'infanzia, l'adolescenza, la rottura con gli amici e con un cambio di uno switch, un cambio di destino, non più le scuole professionali, ma il liceo sarà il destino del protagonista, e questo lo manda verso l'università, lo manda verso quel mondo degli anni 90 dove mai più avremmo usato le mani, dove avremmo fatto lavori cognitivi, dove oppure forse era il sogno degli anni 60, quello dell'operaio che avrebbe avuto il figlio dottore, e si sarebbe emancipato senza conflitto, diciamo, dalla classe di provenienza, e tutte cose che poi in realtà sono andate contro il muro appunto quegli anni 90 sono stati in realtà un momento di ulteriore devastazione, diciamo, delle conquiste che il movimento operaio aveva conquistato negli anni nel passato, e la generazione successiva si è trovata sostanzialmente senza grandi possibilità se non quella appunto di salire su 108 metri d'acciaio per scapparsene all'estero. E anche lì bisogna dire anche tanti di quelli che vanno a fare gli Erasmus o a fare magari programmi di ricerca all'estero, in realtà poi il fine settimana vanno a fare vanno da Starbucks a fare i lavori a minimum wage. Quindi dietro questa retorica da cervelli in fuga, poi se ci fosse la volontà, oltre alla narrazione giornalistica, di analizzarla più profondamente, vedremo che la situazione è più complessa, che in realtà siamo camerieri d'Europa forse più che i cervelli in fuga, e purtroppo anche nell'immigrazione europea mi sono trovato di fronte a continue divisioni nelle narrazioni, per cui noi workers, che non eravamo percepiti come studenti, per esempio, venivamo messi in conflitto con gli immigrati Commonwealth su questioni magari di razza, di race, per dire l'americana, e poi però venivamo messi in tensione con gli europei dell'est, con gli immigrati dal nord dell'Inghilterra. È il solito gioco, diciamo, del capitale di dividere i lavoratori, perché in qualche maniera la classe non ci deve essere più, contano solo gli individui, come diceva la Thatcher, ecco. E in questo scenario quello che io cercavo di fare era di raccontare la mia esperienza andando oltre la maniera in cui di solito si racconta il lavoro, per lo più in Italia. In Italia il racconto del lavoro era stato fatto sostanzialmente negli anni 60 con la letteratura industriale, e poi nei primi 2000 con la narrativa del precariato, e nessuna delle due formule mi convinceva. Ecco, soprattutto rispetto alla narrativa del precariato, io valorizzavo molto l'aspetto di classe e la continuità con il mondo dei vecchi, con la generazione metalmeccanica, diciamo, con gli operai, la tuta blu e le mani sudici, pur nella diversità dei mestieri eseguiti. E rispetto alla narrazione della letteratura industriale, la maniera italiana raccontava soprattutto l'alienazione degli operai, venivano percepiti nella loro oggettività come oggetti sfruttati, alienati, quindi operai raccontati come avviliti, affranti, ammalati. Il punto di vista era quello sostanzialmente dell'intellettuale di classe media, borghese, se no però illuminato, compagno, empatico, che degli operai coglieva appunto gli aspetti collegati all'alienazione, alla sofferenza, e mancava tutta quella dimensione forte di verve popolare che io vedevo Holt, ad esempio, nelle narrazioni britanniche, e che erano parte proprio del tessuto antropologico in cui io ero cresciuto da piccolo, e che magari veniva cantato non dagli scrittori, ma da... Boh, io lo trovavo in certe cose di poesia a braccio, di stornelli, di cose... Oppure semplicemente nei racconti dei babbi ai bar, al bar sport, ai circolini arci. L'iperbole, la deformazione delle storie, la caricatura, il riso, il prendersi in giro, il prendere... Forse questa poi non è... una caratteristica anche in parte geografica toscana, tipica magari della costa, non lo so, avrà a che fare con la mia ascendenza livornese, ma non credo, penso che sia, in fondo lo trovo forte anche in racconti britannici, questa tendenza a esprimere la soggettività degli operai e a far emergere i valori della convivialità e l'alterità nei confronti di quello che un tempo era l'avversario di classe, che magari è semplicemente adesso potrebbe essere il quattrinaio, ecco. E questa diffidenza l'ho trasferita appunto costruendo, incartando con le metafore, creando richiami letterari, mescolando l'alto e il basso. Continuamente faccio questo gioco di mescolare il registro alto, aulico, che potrebbe servire per raccontare il mondo cortese, il mondo della borghesia illuminata, e lo metto in bocca a personaggi che sono quasi deprecabili nella maniera in cui, per le cose che fanno, lo Sturacessi, oppure questo un personaggio che poi va detto estremamente fedele all'originale, questo attore shakespeariano che per una malattia aveva avuto un embolo, insomma l'avevano operato, e però non ci stava tutto, e serviva nella mensa scolastica sporco con questa maglietta, col pancione che non si cambiava mai, con gli aloni di sudore, con le dita listate a lutto, che buttava, però sempre molto consapevole dell'importanza di offrire Shakespeare alle giovani generazioni, quindi lui recitava Shakespeare, intanto metteva le unghie sporche dentro al purè che serviva, e poi continuamente c'era questa cosa di dire my pleasure, perché era l'unica cosa da contratto, mentre nella mensa scolastica per le leggi sulla pedofilia noi non potevamo dire più che grazie agli studenti, cioè, no? E loro erano obbligati a dirci, cioè loro ci dicono grazie e noi prego, e loro erano obbligati a dirci grazie, e poi vedevi lavorando nelle scuole anche il classismo, che poi era una sorta di lavorare nella scuola, no? Anche nei piani bassi della mensa, del kitchen assistant o del criminal kitchen assistant, come con orgoglio si definivano i miei soci di quella pseudo gang di sguatteri che eravamo, tu vedevi la stratigrafia di classe, quindi partivano le classi up middle class, con i professori con un ottimo inglese del sud, vestiti un po' come ci raccontano nei sussidiari scolastici gli inglesi, quindi magari vestiti per benino, tweed, con questo bel inglese della regina, e che ci dicevano che dovevamo dire ai simpatici kitchen assistants che avevano fatto questo meraviglioso cibo, che era una schifezza tremenda, thank you, e i ragazzi ci dicevano thank you, e noi my pleasure, e la cosa andava avanti per 600 volte, era una lagna tremenda. E poi veniva la scuola working class, il professore era praticamente un tipo, un collo taurino in questa maniera, con la maglietta del Liverpool o del Manchester, della squadra del cuore, oppure scritto Ambro con la tuta sportiva, e urlava come il sergente di Full Metal Jacket. Questi studenti working class gli urlano nella scuola in una maniera impressionante. E questi obbligati, quasi umiliati, ci dicevano un lampo d'odio negli occhi, ci dicevano thank you, e sembrava che come di... ma se ti potessi dare una coltellata, sostanzialmente. E noi si diciamo my pleasure, quindi provaci, e poi lo vedi e pedali nel culo. Cioè... E poi c'erano i black, erano una volta che c'era il piano sotto, era praticamente questi cinque studenti di una specie di riformatorio, con cinque professori neri, black di contenzione, che sembravano praticamente pugili falliti, che però era una situazione, gli unici non urlavano, una situazione estremamente amichevole, tanto che con questi giocavamo anche a pallone insieme. E questa esperienza, diciamo, nella scuola, lo sguardo dai piani bassi è presente in tutto il libro, perché diciamo vedere il mondo dai piani bassi è la maniera migliore di conoscere l'Inghilterra. Studiando sui sussidiari scolastici la vedevo come un mondo appunto di che era una parodia del racconto che la borghesia inglese faceva a se stesso, trasferito sui nostri libri. E diciamo nell'immersione che io ho fatto nella working class inglese è quella successiva alla distruzione della working class inglese da parte del principio ultraliberista della Thatcher, per cui non esiste qualcosa come una società, esistono solo gli individui. Gli individui sono incazzati, in guerra, in conflitto gli uni con gli altri, irosi, frustrati e in perpetua guerra. Ed è la condizione ideale per far prosperare le imprese e distruggere i lavoratori, distruggendo ogni germoglio di solidarietà. E il protagonista va alla ricerca di un principio di solidarietà, come dicevi tu, auspicandola in qualche maniera, evocandola con i mezzi del racconto prima epico, ma di un'epica non cortese, ma appunto stracciona, o vagheggiando con la lirica, tentandolo, cioè di evocarla, sperando che queste metafore possano realizzare un nuovo immaginario, raccontare la storia della propria parte, rintracciando un principio di solidarietà laddove tutte le parole sono tossicamente imbevute di veleno e di cinismo ai nostri giorni. Ed è difficilissimo anche trovare solidarietà tra lavoratori, tra italiani. Io dico, quando tu mi chiedevi cos'era peggio, io, nella mia esperienza, lavorare per gli italiani all'estero è peggio che lavorare nei cessi, perché non, perlomeno non c'hai, diciamo, lavorare per l'agenzia interinale che ti manda pure i cessi, non c'hai la maschera della famiglia, della grande famiglia italiana, del ti voglio bene, siamo tutti nella stessa barca, fra noi, cioè, quello è, cioè quella falsa coscienza lì è ancora più avvilente, è veramente la presa di culo che ti viene fatta pesare. Aggiungerei a quelle esperienze il fatto che ho lavorato in seguito in un finto ristorante italiano gestito da turchi. Da turchi, che si spacciavano per napoletani. Sì, esatto, facevano finta, il lavoro che dovevo fare io era far finta un di fare... Un finto toy, il turco napoletano. Far finta di fare l'italiano. Ecco. E quindi, ecco, io in questo libro cerco di mettere... sul fuoco tantissime questioni, alcune sono di tipo anche proprio letterario, perché ho cercato di fare qualcosa che non si fa in Italia quando si parla di lavoro. In passato, tra l'altro, l'unica via era il realismo, quindi il realismo significava raccontare dettagliatamente, che so, il tipo di lavoro seriale, monotono, l'operaio faceva, come era fatta la tuta, come erano fatte, come era sporca, quanto tempo durava il lavoro. Io nel libro, ovviamente ogni libro ha una compressione del tempo del racconto, ma spingo questa cosa della compressione, cioè compressione geografica, compressione spaziale. Uso forte dell'iperbole e della caricatura. L'iperrealismo a volte viene utilizzato come alternativa al realismo perché l'iperrealismo ti può permettere la chiave della deformazione sarcastica. Uso, e questo lo faceva già in Amianto, c'è continuità. Rispetto a Amianto, il libro, come ti dicevo, è un prequel e un sequel. Si può leggere questo indipendentemente da Amianto, o leggere prima questo, poi Amianto. Basta leggere tutte e due, secondo me. Sì, consiglierei di leggere. Io consiglierei, ecco, nel senso, perché i fili son forti. Sì, esatto. Ed è un passaggio anche, appunto, c'è anche un elemento in fondo generazionale, perché in Amianto racconto la vecchia generazione, appunto, la generazione dei padri e quella degli operai, qui c'è la generazione successiva, quella dei figli, che non hanno le mani sporche di olio, che non hanno la tuta blu, però non hanno nessun controllo sul proprio lavoro, sono costretti continuamente a obbedire e fanno spesso lavori seriali, monotoni, senza possibilità di scelta, e sono per lo più gli operai della ristorazione, gli operai della logistica o gli operai dei lavoretti, ecco. E, diciamo, ho guardato, sì, c'è anche molta letteratura inglese, ho guardato alla narrativa inglese working class, ti direi che forse qualcosa così non ce l'hanno nemmeno loro, nel senso, questo è anche il vantaggio della prospettiva dell'immigrato, cioè che tu immigrato hai un punto di vista e vedi le cose da fuori in una maniera che loro non hanno. Quindi ho cercato di rubare tutto quello che potevo con gli occhi, e facendo qualcosa che non c'è nella narrativa italiana del lavoro, ma che è diverso anche da quello che loro considerano narrativa working class. Poi, che cosa si intende per narrativa working class? Io direi che molto spesso, quando arriva in traduzione, qualcosa arriva, si cerca anche di non etichettarlo come narrativa working class. In questo senso, alla classe lavoratrice non spetta l'omaggio del racconto. È un po' la stessa cosa che in fondo è successo in passato per i Black, no? Ed è interessante lo sviluppo degli ultimi anni della narrativa afroamericana, ad esempio in America, cioè i neri non dovevano raccontarsi, no? Mentre invece poi si è visto che c'erano dei, per esempio, i racconti di sulla schiavitù venivano fatti oralmente, venivano fatti attraverso, per esempio, donne che tessevano, raccontavano le proprie storie attraverso la tessitura, perché magari erano analfabeti, oppure utilizzavano i canti e l'oralità e così via. La scrittura, il romanzo in particolare, è sempre stato lo strumento con cui la borghesia si è raccontata, ecco, si è messa in discussione, si è messa allo specchio, ha spinto in tantissime dimensioni la propria identità, adattandola alle esigenze e al trascorrere degli anni, e questo dal 600 fino a oggi. Ecco. Per gli operai c'erano borghesi illuminati che li raccontavano, era molto più difficile che membri della classe operaia si raccontassero. Cioè, ci sono esempi anche negli anni 70, come ad esempio Tommaso Di Sciaula, che scrive Tutta Blu, che è bellissimo, Luigi Di Ruscio, un immigrato italiano nell'Europa del Nord, che scrive poesia e romanzi. In Inghilterra ce ne sono tanti, soprattutto negli anni dopo il, diciamo negli anni 50, 60, 70, quando succede da loro quello che da noi succederà negli anni 70, cioè l'accesso alla democratizzazione, l'accesso scolastico, che da loro si realizza prima che da noi, fa sì che negli anni 50 e 60 figli di ferrovieri siano in grado di raccontare, scrivano romanzi sulle ferrovie o scrivono antropologia o sociologia della working class inglese. Poi in realtà adesso diventa più difficile. I romanzi di Wim Welsh, che da noi sono raccontati come racconti sulle culture, sulle subculture delle droghe degli anni 90, in realtà raccontano la nuova working class, la generazione successiva allo smantellamento dei delitti operato dalla Thatcher dopo la vittoria sui minatori del nord nei primi anni 80, ossia il fatto che 10 anni dopo il passaggio del fantasma della Thatcher, della Lady di Ferro, la generazione successiva, i figli dei minatori, i figli dei docker, degli stivatori di Liverpool o Manchester o Glasgow o Edimburgo, come non hanno nessuna prospettiva di studio, non hanno nessuna prospettiva di lavoro, l'unica cosa che possono fare è andare a prendersi i soldi del dolo della disoccupazione e spararseli, trasformarli in droga e spararsela in corpo e cercare di fare quanti più danni possibili nei confronti dei quartierai verso cui rimane. E questo lo percepisco ancora. Loro mi dicevano, i miei colleghi, questa cosa c'era il noi e il... Io non capivo se erano quelli che tiravano, questi erano quelli con la puzza sotto il naso, che era una specie di sostituto dell'avversario di Lasse, cioè, questo era quello che un po' era rimasto della vecchia conflittualità. E ecco, da noi certi romanzi di working class sono raccontati come romanzi sul football, sul calcio, quando invece il calcio o il rugby sono elementi dell'identità della cultura operaia e sono un'espressione simbolica della classe operaia. Romanzi come quelli di Cartwright molto spesso sono raccontati come libri sul football. Invece raccontano di nuovo Cartwright alla nostra età, è del 73, lui racconta, in genere il protagonista è il figlio di un vecchio operaio old school che gioca a calcio perché non c'ha lavoro, oppure fa l'educatore nella scuola, ma perché poi il calcio era una forma di di, in qualche maniera di un ascensore sociale e poi a un certo punto si ingrippa, oppure se quando funziona ti porta immediatamente a diventare una star e quindi esce comunque dalla vecchia classe operaia. Però ecco, cioè, questi racconti sul calcio tradotti, quando, o meglio, diciamo, tradotti in italiano diventano racconti sul calcio, in realtà sono racconti sulla nuova classe operaia inglese. Io dico la classe operaia oggi è una classe operaia migrante, io mi sono considerato parte della working class inglese fin quanto lavoravo lì. E c'è all'opera c'è un saggio bellissimo scritto da un giornalista del Guardian, intitolato The Demonization of the Working Class, il titolo generale è Chaps, Coatti. C'è una tendenza a raccontare oggi la classe operaia inglese come un mondo di coatti, nel senso che è il passo successivo al primo dogma ultraliberista, quello della Thatcher, per cui non, la classe non c'è più. Il passo successivo è siamo tutti middle class, o meglio ceto medio, quindi, e chi non vuole diventare ceto medio, che negli anni 90... Questo era il passo di Blair, no? We are all middle class, siamo prosperi, siamo felici, spendiamo, siamo consumatori, non siamo classe. Siamo la classe di quelli che spendono i soldi in beni di consumo. Chi non ci sta è the scum of the earth, cioè è teppa, ciurma, merda, sono coatti, sostanzialmente. E se vogliamo, il tentativo mio è infilarmi in quel mondo lì e trovare un germe di speranza, un'ombra di quella vecchia di quella vecchia classe dove il lievito è costituito dai lavoratori migranti. Tra l'altro il libro andrebbe letto anche guardando i paratesti, cioè negli esergi c'è una citazione per ogni capitolo e costituisce un riferimento letterario importante, e nella dedica c'è un la dedica è a quel facchino egiziano che fu ucciso mentre faceva un picchetto a Piacenza, un operaio della logistica, era un maestro nel suo paese di origine, che forse se vivo lui in Egitto sarebbe stato considerato un cervello in fuga. In realtà faceva, da noi non faceva il maestro ma faceva il facchino, ed era un sindacalista come l'altro operaio morto pochi giorni fa, africano, perché poi gli immigrati, che noi descriviamo come coatti, come teppa, noi intendo, poi spesso sono l'ala più combattiva e quando è possibile più sindacalizzata, certo. Quando è possibile, nella logistica è possibile, più difficile nelle campagne dell'attuale scontro di classe. Però non dobbiamo raccontarlo, non dobbiamo trovare sintonie fra gli immigrati che arrivano in Italia e quelli che se ne vanno, anzi dobbiamo raccontare loro sono disperati in fuga e i nostri sono expat, sono expatriate, sono piccoli imprenditori di se stessi che vanno a fare fortuna all'estero, quando invece siamo io mi definirei semplicemente come un immigrante. Se trovo un'opportunità buona faccio la cosa buona, se va male faccio, a me è semplicemente capitato di avere soldi per stare in Inghilterra per 2 settimane dove ho fatto la pizza d'estate. Un amico mi aveva detto vai lì, trovi lavoro facilmente, ci ho provato, in realtà i soldi stavano finendo, ho preso il primo lavoro che ho trovato, quando ho potuto ho cambiato lavoro, poi in realtà non è che sempre li ho trovati positivi, se mi avessero offerto di fare una cosa diversa l'avrei fatta, ecco, semplicemente, è stata una cosa molto pragmatica. La cosa importante era raccontarla al ritorno, che raccontarla è anche in qualche maniera un mezzo per rompere la subalternità. Tante volte mi sono sentito subalterno facendo questi lavori. Sapevo che raccontare la storia era un mezzo per anche per trovare una forma di riscatto. Detto questo, magari mi piacerebbe leggere un paio di passi, tanto per dare l'idea di cosa si... Posso leggere un pezzettino, sì? Della, sì, lezione di Brian? Sì, leggi Brian, e io leggo la parte del Brunello, visto che l'altra volta sul vino, c'è sempre nei miei libri un passo sul vino, l'altra volta ho letto l'Oste di Prata, stavolta vado col Brunello. Però chiederei una birra, se possibile, a... Deve parlare del Brunello, ma chiedo una birra, giustamente, in maniera inglese. Vi leggo un pezzettino della lezione di Brian. Siamo nei cessi di un centro commerciale. Brian ha questa particolarità che ha un po' la Airbnb. Allora, K Caro Vlagrasso, mi disse sputacchiando Brian con aria teatrale, quello che noi facciamo è garantire la perfetta funzionalità degli scarichi. Tartagliava, tossì, poi riprese il filo. Certo, il supervisor ti dirà che dobbiamo anche camminare da un lato all'altro del centro commerciale con la scopa in mano, raccattando gomme da masticare e cartacce, e va bene. Ma non è quello il punto. Quelle sono duties collaterali. Defiantly. Il nostro è uno scopo più alto, necessario al buon funzionamento della struttura. Siamo maestri di idraulica e dobbiamo evitare gli spillage all'interno del centro. A quel punto, ignorando il termine, rimasi confuso. Non avevo neanche il mio dizionarietto tascabile che i primi tempi portavo nel marsupio per darmi sicurezza. By spillage, I mean the act of spill, pontificò Brian con aria accademica, intuendo il mio vuoto semantico. Io però lo guardavo con espressione interrogativa. I have no idea, Brian. According to the Webster Dictionary, e a quel punto l'omone si sollevò dal cesso dove era seduto, puntellandosi con la scopa, e ne approfittò per incollare sui pantaloni blu un grumo di muco che dal naso gli era scivolato sulla barba e che dopo una meticolosa ricerca era riuscito infine a recuperare. To spill means to cause or allow something to fall, flow or run over the edge of a container, usually in an accidental way. Sputacchiò sull'accento tonico di accidental. Ah, adesso è chiaro, è quando il water si intasa e fuoriesce l'acqua del sanitario, feci io tirandomela un po' da studentello. Esatto. Excellent. I nostri clienti sono persone ben educate, inclini a lustrarsi con estrema minuzia il deretano. Ho fatto molte letture sul tema. So che voi italiani avete appreso dagli arabi l'uso del bidet. Nei territori delle nostre colonie, ex colonie, Brian, lo interruppi, corretto. Ex colonie. Ecco, dicevo che là si fa uso della mano sinistra, tradizionalmente impura, per nettarsi le chiappe con le mani, evitando la carta che è costosa assai. Alla bisogna è disponibile un secchio o un doccino. Da noi, sudditi di Sua Maestà, si fa in vero un uso eccessivo dei rotoli di carta da toilette che avrà conseguenze ecologiche prima o poi sugli alberi del pianeta. Alcuni più illuminati, usano un piccolo towel, un asciugamanino avvoltolato che viene poi riscaldato con acqua tiepida e usato per il cosiddetto ars whitening, la pulizia delle parti meno nobili. Diavolo, Brian era la persona più colta che avessi mai incontrato nel mio soggiorno inglese fino a quel momento. Oh, veniamo al vino. Il vino è fondamentale. Io a un certo punto racconto nella mia giovinezza il passaggio. Spesso si parla degli anni 80 perché segnano una cesura profonda e sono d'accordo. Però anche gli anni 90 sono un momento importante di trasformazione di tutta una serie di questioni. E una è connessa alla maniera in cui si comincia a bere il vino negli anni 90. Io racconto di quando primi anni, metà anni 90, arrivo all'università a Siena, quindi una città d'arte ben diversa, diciamo, dalla Maremma delle Acciaierie dove ero cresciuto. Maremma Cane. La Maremma Maiala, e bevono in un altro modo. E dico, anche la socialità degli studenti mi risulta estranea. Ci sono quelli che il vino non lo prendono più sfuso, ma imbottigliato. E lo bevono nel calice, mica nel gotto. E il calice lo fanno girare in tondo. E mica bevono, annusano, e poi dopo lo aspirano facendo un rumore coi denti come se avessero freddo. O quante storie fanno per un sorso di vino? E quando bevono? Mai, perché lo sputano. E Dio, non è quella, è la degustazione. Sicché del Renato, mio babbo, io si tracannava al rosso, ora invece tutti degustano. Ma prima di degustare fanno delle cerimonie particolari, brindano sempre, degustano le bollicine e si guardano negli occhi prima di fare cin cin con i bicchieri. Ma che cazzo ci avranno da festeggiare? Me lo chiesi anche quella volta e fui invitato con un amico dei vecchi tempi nell'abita dimora del pargolo di un avvocato senese conosciuto in un corso di linguistica. E viene fuori e lui ci ha fatto venire a casa sua per fare bella figura con le ragazze. Noi siamo quelli provinciali e lui è il padrone di casa cittadino dalle buone maniere. Infatti inizia a suonare il violino e intorta subito un paio di colpi d'archetto le tre tipe presenti. Allora noi arrabbiati si comincia a bere il vino e lui ci blocca mentre io gli ho appena stappato un brunello invecchiato 8 anni. E lui fa: no, questo è un vino da centellinare. E io penso: vai, si ricomincia col calice, movimento circolare, aspirare coi denti come se facesse freddo e poi sputare. E gli dico: sei sicuro? Perché noi ci sarebbe sete. E lui fa: se avete sete, bevete l'acqua, questo è dannata, è un vino da meditazione e poi va fatto respirare nel decanter e domani si può bere. Beh, furbo penso, io domani non sono mica lì. Allora gli faccio un sorriso e poi incollo la bottiglia alla bocca dopo averla messa in asse con la mia spina dorsale, così no? Grugu, grugu, grugu, e trangugio la bottiglia di Brunello, elegante e profondo nella scansione aromatica, seducente nella sua dolce avvolgenza, tutto ad un fiato. Poi mi pulisco la bocca col dorso di una mano che mi asciugo sul culo dei pantaloni e fissandolo nelle palle degli occhi ci lascio un rutto d'apprezzamento. Carattere floreale, bell'accento pepato, sottile vena minerale, sapido fresco, arioso, variegato e speziato su note fumé, un'eruttazione gastrica magistrale, lunga e con uno stacco perentorio in chiusura. Dopodiché mi esibisco in un inchino come un interprete di Paganini davanti all'ovazione del pubblico e lui diventa isterico e ci butta fuori casa. A me e al mio amico piombinese che continua in automatico a ripetere: De, ma l'ha provata la carta igienica nel cesso? È diversa da quella di casa mia, eh? Volponi non l'avrebbe mai fatto, diciamo, il punto d'apprezzamento. E poi non so cosa potrei leggere, forse la storia di Pingone, quella della scuola, un altro passo comico. Vi leggo un paio di cagate, diciamo, un po' comiche, perché c'è una parte molto forte sulla scuola, qui riconosco anche l'importanza della scuola proprio come momento, soprattutto la scuola, quella delle riforme, la scuola è messa in croce oggi, quella che passa dalla guerra cruzata di dominanismo, degli eccessi libertari per colpa di ideologie pauperiste evocate da Gianni Rodari, da Don Milani, da Tullio De Mauro e altri, no? Quindi non la scuola, diciamo, selettiva e c'era un tempo che si vorrebbe tornasse, per fortuna ancora non c'è, però chissà. E però al tempo stesso, diciamo, racconto anche questa scuola dove, insomma, tra l'altro sono andato a scuola nell'ex Silva, in un'ex fonderia dove ho fatto le medie, dove c'erano a volte dei personaggi di un certo spessore, ovviamente non era neanche facile fare gli insegnanti con i miei compagni di classe o me stesso quando ancora non avevo deciso di essere diventato un bravo liceale. Allora vi racconto la storia di Pingone, un attimo che trovo, che è, diciamo, uno studente un po' tosto. Ecco. Eccoci, sì. Allora, racconto il fatto che passando poi al liceo avevo perso contatti con Pingone e gli amici delle scuole medie. Perché c'era questa cosa che non giocavo più a pallone, insomma avevo rotto un po', mi consideravo quello che studiava e mi pigliavo per il culo, no? Nel senso che c'era questa cosa che quando studiavi troppo ti chiamavano cervellone. Il cervellone era uno che c'era la testa così, no? Come Gramsci, come Leopardi, e dicevano: cioè, dei, prendetti un cicà e diventava un cervellone, perché andavo al liceo. Non ti degni di venire già a pallone con noi, Prunetti, hai mica paura di farti male, eh? Anche Pingone non mi cercava più, il figliolo del meccanico, eppure si era amici, da quando lui mi si era messo accanto al banco di scuola di seconda media. Era ripetente dell'anno prima. Io lo cercavo volentieri perché mi insegnava a fare l'impennate con la bicicletta e contavo le pedalate che faceva lui con la ruota in alto, e se la bici da cross si rompeva, il suo fratello, che aveva delle mani nere come la pesce, sortiva dall'officina e ce la risistemava. Pingone me lo ricorderà sempre perché era uno che alle medie ci faceva un po' da figura paterna, perché la sapeva lunga, l'ho detto, era uno ripetente. Il primo giorno di scuola fece un exploit col botto. Siccome la segretaria delle medie aveva fatto casino e non aveva aggiornato il registro delle classi della seconda, il suo nome era rimasto fuori perché lei aveva ripreso la lista dei bimbi dal registro dell'anno prima. Quando suona la campanella entra in classe la professoressa, che era una nuova, aveva insegnato solo una scuola di bimbi di città. Insomma, faccio un po' breve. Comunque la professoressa inizia l'appello. Se l'appello, quelli più compiti si alzano con fare secchione, quelli più picchi se la spiegano con un simulato movimento ascensionale. Comunque, dopo una squilza di presente, presente, presente, la prof dice, bene, allora siamo tutti. E a quel punto, accanto a me, sento il mio compagno di banco, questo pingone ripetente, che si gratta la gola come quel butta giù un rospo rimasto incastrato nel gozzo. Poi alza la mano e la prof fa, prego. E lui, con un'aria educatissima e un tono che simula quello dei bravi pargoli dei ceti abbienti, mi permette, signora insegnante? E lei fa, sì, prego. E lui ancora, come se fosse il figliolo di un architetto. Mi scusi, signorina, volevo porle una domanda. Signora, volevo porle una domanda. Certo. E io che so, figliolo di una maiale. E lei diventa rossa e va nel panico e dice, no, ma scusi, ma che dice? Gli dà addirittura del lei, tanto il suo esordio era stato autorevole. Ma che bella sega, dice, siamo tutti, ribatte Pingone. Io so qui, e lei un mammacco nominato. Se non ci so, allora me ne vo, che mio fratello mi aspetta in officina e c'è da rettificare un motore. Poi si gira verso di me e mi rivolge l'interrogativa. Ho ragione o no, coso? E io te, figurati se gli dicevo di no, chissà che tonfi sulle gengive mi dava. Sicché dopo questo primo giorno di scuola, di seconda media, Pingone mi impressionò per la sua saggezza, divenne il mio migliore amico e appunto mi insegnò a impennare con la bici e mi passò anche dei giornaletti educativi dal punto di vista della fisiologia e dell'anatomia della riproduzione della specie umana. E la nostra amicizia durò 2 anni, ma quando andai al liceo anche lui iniziò a chiamarmi cervellone. E a me questa cosa mi stava sul gozzo. Non è che ci avessi la puzza sotto il naso, ma lui sapeva una bella sega dei poeti stramaledetti e dei fottuti granelli di sabbia di Atullo, che non li spostavi tant'erano neanche con una benna di una ruspa della coqueria. Dico bene? E allora smisi di vederlo, a quel punto sì che tutti dicevano che ero diventato insopportabile e che andavo al liceo perché era l'unico posto dove potevo menare qualcuno e tornare a casa senza lividi. O gioca a pallone e fa una tripletta con tunnel al figliolo grassoccio del notaio che stava sempre in porta e che almeno c'aveva a casa il pallottoliere per segnare quanti ne faceva passare di palloni, che poi il suo babbo li scaricava assieme all'IVA. Diciamo che anche tanti racconti del lavoro tendono, anche quelli dei primi anni 90, tendevano diciamo a non dare questa dimensione di conflittualità fra la dimensione di classe, però raccontato la leggerezza dell'umorismo e i racconti degli anni 60 erano appiattiti sullo sfondo diciamo un po' pesante. Poi non lo so, non so nemmeno quanto tempo è passato, se c'è qualche domanda, se no poi leggo un'altra pagina in chiusura, se volete prima fare qualche domanda rispondo, ditemi voi. Meglio se vieni qui perché così è tutto. No, io volevo chiederti una cosa, di ritornare sul discorso del linguaggio che avevi utilizzato, per cercare un po' di capire cioè, come era proseguito il percorso, cioè nel senso nel fioraio di Perone eri partito lavorando molto sul linguaggio dell'arbicoltura, delle piante o queste impressioni. Ah sì, c'era, sì. E in amianto naturalmente c'era un discorso un po' più legato alla siderurgica, alla metalmeccanica, quindi c'è un riferimento anche al lavoro di Renato che passava molto nel linguaggio che ti costruivi, che probabilmente era anche specchio, come dicevi prima, di un universo mentale che ti permetteva di raccontare le cose in questa maniera. In questo libro qual è il linguaggio che utilizzi? Cioè c'è un linguaggio del lavoro e in caso che universo rispecchia? Allora, in amianto c'è sicuramente il tema del linguaggio specialistico, che l'ho cercato, soprattutto con l'incipit di amianto, descrivo tecnicamente una saldatura, e alcuni operai me l'hanno, hanno letto il libro, ma le saldature si fanno così, bravo, passato l'esame. E, linguaggio tecnico, qua c'è una parte sulle api e sull'apicoltura nel finale in cui c'è un linguaggio tecnico dell'apicoltura emerge, che nel frattempo io mi sono appassionato di apicoltura ed è una delle cose che faccio per far reddito, ma in auto, sì, autosussistenza, e, che si collega forse al discorso sui fiori del fiorale di Peron, su quel libro forse c'è un elemento interessante, il fatto che lì c'è una storia di immigrazione, una storia di immigrazione di famiglia in qualche maniera, però raccontò veramente la vecchia immigrazione italiana del passato, no? Quella dei primi del Novecento, e è tornato un elemento di contaminazione e di ibridazione linguistica nel fatto che il tema della lingua migrante in Argentina viene delineato in una maniera molto interessante, perché c'è questo linguaggio, questa interlingua in Argentina, che adesso non è che si parli più, ma tecnicamente se tu vai a imparare, come ho fatto anch'io, e sono andato in Argentina, ho imparato lo spagnolo in Argentina, succede per un po' di giorni parli un ibrido italo-spagnolo che loro chiamano cocolice. Cocolice poi in realtà una, se non sbaglio, un musical che racconta la storia di un immigrato italiano. Gli italiani che magari venivano a bassa alfabetizzazione, che non parlavano l'italiano ma parlavano il dialetto, arrivavano in Argentina, mettiamo negli anni 20-30, a contatto con lo spagnolo sviluppavano questa lingua ibrida che non era né italiano né spagnolo, ma era una mescla, un mix di, mettiamo, calabrese e spagnolo, veneto e spagnolo. E questa cosa mi è servita per inventarmi quel gramelò, quell'argo strano che parla Silver. Ci ho montato le due lingue che conosco meglio come traduttore, l'inglese e lo spagnolo. L'inglese è una sfida in più, perché veramente l'inglese è una lingua odiata e amata nello stesso tempo, la lingua della mia subalternità come lavoratore. Faccio un esempio linguistico terrificante che ti dice anche tanto dell'umorismo, dell'ironia cattiva dell'inglese di classe media. C'era questo supervisor che mi stava sempre col fiato sul collo, perché io lavorando non dovevo parlare quando pulivo tavolini, per esempio, quando facevo il cleaner, e poi in realtà succedeva che c'erano degli sgabuzzini dove noi cleaner oppure direttamente nei bagni, e mentre pulivamo bagni ci mettevamo a parlare di cagate, di calcio, di quello che ci veniva, e ci stavamo parecchi chiusi nei bagni a chiacchierare, era un modo per sfuggire alle telecamere di sorveglianza che sorvegliavano noi sostanzialmente, e all'occhiuto supervisor che ci guardava da questo panoptico, da questa struttura circolare. E una volta uscendo, lo racconto nel libro, ma è veramente una cosa che mi è successa, c'è questa, aveva un altro nome nella realtà, c'è questa supervisor Ellen nella realtà che mi dice: "Your English is improving, Alberto." E io lo prendo, mi inorgoglisco perché mi sta dicendo che il mio inglese sta migliorando, e lei passa un secondo e mi dice: "Ma te non sei qua per imparare l'inglese, questo non è un college, tu sei qua per star zitto e pulire." E quindi questa cosa del tuo inglese sta migliorando era in realtà mi stava redarguendo per il fatto che stavo che parlavo invece di lavorare. Quindi il tema linguistico è il diritto di parola, la maniera in cui tu ti racconti attraverso le metafore, l'ironia, è fondamentale in tutto il libro. Ovviamente l'ho dovuto costruire. All'inizio, per esempio, Silver parlava una lingua piatta, diciamo, parlava italiano. C'avevo questa difficoltà, innanzitutto, e dovevo far parlare personaggi in italiano, cioè scrivere in italiano con personaggi, dando per intendere che questi personaggi parlassero in inglese. Quindi già c'era un elemento di difficoltà. L'altro elemento di difficoltà è che io non potevo parlare sempre alla stessa maniera, perché all'inizio, dopo scontato, io non so l'inglese, eppure il protagonista in autofiction come fa a parlare, non può parlare sempre alla stessa maniera, non può avere sempre lo stesso, la stessa competenza linguistica. Quindi ho dovuto un po' diluire, complicare, cioè la chiave della, diciamo, la calibrizzazione era la maniera per non parlare l'inglese ma neanche pienamente l'italiano. Poi delle volte c'è proprio la sovversione, cioè la sovversione è rovesciare l'alto e il basso. Faccio anche un riferimento a un certo punto esplicito all'idea carnevalesca del mondo alla rovescia, no? E se vogliamo anche un altro riferimento rioplatense, perché poi è il titolo di un romanzo bellissimo, di un libro bellissimo di Edoardo Galeano. E, praticamente io metto registri colti per operazioni, lavori o mansioni o personaggi bassi, ecco. Quindi diciamo che parlo di merda come se fosse nobile e parlo della nobiltà come se fosse una merda, ecco, detto proprio. E c'è un rimando anche lì importante, che è un bellissimo libro scritto da una domestica ai piani bassi di Margaret Powell, no? Che racconta il mondo della ristorazia vista dal basso. Ecco, quindi questo rovesciamento continuo di... Quella pure è una storia autobiografica. Autobiografica, assolutamente. Un libro meraviglioso scritto da una domestica, che a un certo punto in vecchiaia ha raccontato le sue esperienze. È stato tra l'altro un bestseller, credo. Insomma, un libro che andava molto bene in Inghilterra. Negli anni 60. 68. E... quindi quest'altro elemento, diciamo, è forte, non, è, non potevo fare una sociologia linguistica, non era, però la preoccupazione linguistica è sempre stata al centro del mio interesse. Sono partito piatto e poi ho complicato in un secondo momento. Ho anche intersecato molto con cose vernacolari, perché non volevo neanche... cioè la chiave vernacolare è interessante perché esprime il parlato popolare, insomma, non è, è anche il, diciamo, il toscano mio non è il fiorentino delle classi colte, ecco. Quindi mi invento una specie, è un po' bastardo anche quello, perché un esperto di dialetti vedrebbe, non è né grossetano né livornese, ma è un po' montato, ecco, incastrato, giocato su questi, su... continuamente monto, scavo. La scrittura è un'operazione veramente di costruzione, no? di montaggio, di quasi costruttivista. Quindi io questa operazione l'ho fatta continuamente con l'italiano e le lingue straniere, con i dialetti, con i vernacoli di varietà diversa all'interno del toscano. E poi ho cercato di farle esplodere mettendole in conflitto con la provenienza, eccetera, nell'idea appunto di ribaltare l'idea che chi sta sotto deve per forza esprimersi in maniera naif o banale. Ecco, invece i miei personaggi sono tutti un po' forbiti, che è paradossale, perché poi sono sudici, sporchi, no? Con le unghie sul cazzotto sempre pronto, però parlano in questa maniera. Io sarei curioso di sapere se qualcuno della tua ciurma l'ha letto, gliel'hai fatto leggere, l'ha conosciuto, che commenti ti hanno dato? Sono ancora vivo, no? No, scherzo. Allora, la ciurma era composta, se sono ancora vivi loro, no? No, ancora no, immagino, perché non è stato tradotto in inglese e non lo leggevano altre lingue all'infuori dell'inglese. Lì c'era. Non c'era nessuno come te, italiano del sud Europa. Dunque, quando lavoravo nel centro commerciale c'erano spagnoli, c'era gente da tutto il sud dell'Europa. Nel centro commerciale cercavano molto gli euro sfigati, diciamo, i lavoratori dell'Europa del sud, per fare questi lavori, perché non c'era difficoltà di mettere a fare lavori umili, minimum wage, non c'erano problemi di visti, obbedienti, disciplinati, come considerano probabilmente gli imprenditori agricoli e gli immigrati. E lì eravamo quasi più a fare questi lavori, diciamo, a pulire tavoli. Per esempio all'inizio pulivo tavoli, in questo lavoro, per cui tipo, immagina, tutti fast food, gli Shetburger, io li chiamavano, tutti gli Shetburger intorno, e poi questo piazzale con tutti i tavolini, e da qualsiasi posto tu prendevi ti sedevi a tavoli, e poi mangiavi e lasciavi la carta e gli avanzi. Arrivavano questi pulitori, pulisci i tavolini, buttavano tutto nella spazzatura, ripulivano, spray, pugnetta, pulivano, e il tavolo lì era pronto. E lì c'erano anche ragazzi, studenti, Erasmus. Nessuno, in genere ti provavano a mandare ai cessi, e di solito la gente si rifiutava, io accettai. E ai cessi eravamo di meno, e c'era anche qualche africano, quindi Commonwealth. Eravamo di stranieri, eravamo pochi, e i pochi inglesi che c'erano, qualcuno era veramente un personaggio un po', diciamo, problematico. Altri semplicemente non avevano nessun problema a fare quel lavoro, perché poi sono lavori che vanno fatti, nel senso che, cioè, il problema è lo sfruttamento, il problema sono le paghe, lo stigma magari negativo, ma non c'è nulla di male a puli bagni, nel senso, se vogliamo bagni pubblici puliti, qualcuno deve pulire, quindi non è per me che me le sentissi, a me quello che mi pensava era il supervisor, non più che la mansione, e la cattiva paga e così via, l'assenza di diritti. Poi, quando invece ho lavorato nelle cucine, per esempio nelle cucine italiane, io racconto un'esperienza fatta per lo più in Italia, perché io quando sono andato a vedere l'area si respirava nelle cucine italiane, ho detto, meglio bagni, capito? Perché veramente era atroce. E poi non avrei imparato nulla, perché lì si parlava italiano, quindi non imparavi mai neanche l'inglese. Io volevo proprio imparare l'inglese. Quando sono andato a lavorare come kitchen assistant, lì veramente è stato per il momento di ascesa sociale, perché ho lavorato nella white working class, proprio quella British, e mi sono fatto delle risate, va detto, veramente, cioè, certi episodi li racconto, sono quelli, era una banda di sbandati, altri spotting veramente, e non l'ho raccontata tutta perché alcune erano irriferibili, cioè, e quindi però è stata, e poi c'era veramente questo attore, l'attore shakespeariano vecchio, perché poi eravamo tutti, più vecchi, avevo 28 anni, gli altri erano veramente ragazzini, no? E poi c'era questo qui che aveva 50 anni, e mi sembrava come se ne avesse 80, per la percezione che avevo io, era veramente una creatura con questi occhi in età di sangue, azzurri, ciglione foltosi, quattro cose, disgustoso, diceva delle cose volgarissime, eppure forbito, però aveva una costruzione dell'inglese con il verbo che metteva, sente il verbo in fondo, e leggeva il verso metrico elisabettiano in una maniera, perché veramente era stato un attore radiofonico. E lì erano per lo più tutti inglesi, c'era questa separazione fra il teaching staff e il kitchen staff. Teaching staff erano tutti studenti, anche tra i lavoratori, erano studenti appena laureati, che prima di andare a fare i lavori veri, diciamo, si facevano una stagione con un lavoro da animatore turistico, sostanzialmente. Prendevano due soldi, si facevano un'esperienza, un viaggio, mettiamo in India, chi poteva il ticket around the world, e poi tornava in Inghilterra, si cercava il lavoro quello vero, e si ripagava il debito universitario, sostanzialmente. E loro erano tutti, diciamo, ragazzi inglesi già di buona famiglia, perché ormai in Inghilterra il costo assurdo dell'istruzione, diciamo che i ragazzi working class non andavano più all'università. E noi, in realtà, c'era un ragazzo inglese che lavorava, che a un certo punto arriva, era uno avente rotto l'università, diciamo, era lì un momento di declassamento temporaneo dovuto a eccessi di alcol, e delusioni amorose, altre cose, e quindi ha sprofondato, diciamo, nei piani bassi con noi, e gli altri erano alcuni veramente scappati, uno aveva guai con la criminalità nella zona in cui era cresciuto e se ne era scappato, e poi c'era questo personaggio che chiamo Rossa nel libro, lui veramente di stazione working class del nord, però lì non c'erano a lavorare con noi, in quella cucina lì non c'erano stranieri oltre a me, e non c'erano neanche donne, mentre invece c'erano nella cucina, perché c'erano due cucine diverse, e eravamo considerati marmaglia, cioè problematici, ci richiamavano continuamente, ci minacciavano di, ci diciamo la gente per noi doveva finire in galera, ma le cose veramente più terrificanti, e fra tutte, diciamo, l'esperienza più tosta, ti direi, è quella nella working class inglese, che veramente assomigliava più a quella di Trainspotting che a quella dei film. Cioè, mancava quell'idealismo. Io li ho fatti più buoni. Cioè, io li ho fatti, li racconto con uno sguardo un pochino più sentimentale di quanto fossero in realtà. Beh, allora non ti ammazzano se lo leggono. Ma perché li ho fatti più buoni, pure perché li ho fatti buoni, cioè, c'è un po' nobilità, ti dai. C'è nobilità di troppo, pezzo di merda. Ma vediamo se fosse tradotto, sarebbe interessante andarli a cercare, vediamo un pochino. Sì, se... Vai. Io volevo farti una domanda per un pipare. Mm. Nel senso che ho letto Amianto, mm-hmm, e non ho ancora letto 108 metri. Sì. E ho notato che anche da come hai descritto questo racconto, c'è una forma di goliardico cameratismo tra uomini, mm-hmm, no? E la narrazione mi sembra molto molto maschile. E allora mi chiedevo se il fatto che le donne non siano presenti, per esempio in Amianto, e non so precisamente se non lo sono neanche in questo libro, fosse una forma di rimozione oppure una coincidenza, oppure se le donne non sono incluse in un racconto, diciamo, di lotta di classe per qualche motivo sconosciuto. No, è una domanda fondamentale. Allora, ovviamente l'esperienza mia... Io racconto in autofiction la mia esperienza, e diciamo nella famiglia working class era composta da un padre e una madre, e nel posto dove lavoravo io il lavoro in fabbrica era al maschile, perché la fabbrica era una metà meccanica, le acciaierie, dove anche non assumevano le donne, e c'è per esempio degli studi sulla componente femminile della classe operaia follonese, che dicono sostanzialmente che le donne facevano piccoli lavori in casa e facevano il grosso del lavoro domestico, cioè non retribuito. Ci sono due inchieste dell'Università di Siena di antropologia del lavoro sulla componente femminile della classe operaia tra Follonica e Piombino, che sostanzialmente, mancando quel tipo di fabbriche, tipo per esempio il tessile, no? Dove c'avevi una componente di fabbrica di donne che lavoravano in fabbrica, che socializzavano il loro lavoro facendo assemblee, confrontandosi sul tema del lavoro, facendo il lavoro domestico non retribuito, le donne erano atomizzate e quindi stavano in casa, magari lavoravano finché facendo le commesse, finché poi non si sposavano, come si sposavano. Così ha fatto mia mamma, che praticamente al secondo figlio ha smesso di lavorare, ha lavorato un po' facendo la commessa e la segretaria, perché aveva fatto l'avviamento. Ora, detto questo, quando io ho scritto Amianto, nella prima edizione, c'era molto di più della mia mamma, che la mia mamma, in 108 metri lo racconto un po' di più, leticandoci lo raccontavo un po' di più, è stata la persona, cioè se io leggo i libri e li traduco, è perché la mia mamma, che è una lettrice forte, una persona che legge tantissimo anche oggi, e la mia mamma era quella che credeva nel fatto che i libri, non che fosse una persona colta, però vedeva nel libro una dimensione di sfuggire diciamo al dominio, ecco. E infatti c'è tutto il periodo, il secondo capitolo, 108 metri, racconto come la complicità tra mamma e figlio, anche contro il volere del babbo, alla fine fa sì che io vado al liceo e non alla scuola professionale. Quando in Amianto, dunque la mia mamma è il mio primo edito, cioè è la prima persona che legge il libro. Quando la mia mamma ha letto Amianto, mi ha detto: sì, è bello, mi è piaciuto tanto, però devi togliere tutto quello che mi riguarda. Ora, io questa cosa la interpreto in due modi. Da una parte, il racconto familiare è sempre problematico, cioè è molto facile proiettare me e il mio babbo in un libro, perché io so vivo, e mio babbo, e io sono vivo e mi racconto come cazzo mi pare, e mio babbo non c'è più e non mi può mettere in discussione. Però raccontare magari la mia mamma diventava più problematico, perché con lei ho un rapporto, e o lo racconto in chiave caricaturale, o lo racconto in chiave comunque deformandolo, e diciamo corro il rischio che questa cosa a lei non piaccia. Io non so se è per questo o perché semplicemente quella dimensione di subalternità domestica sviluppata nel corso di tanti anni ha fatto sì che non solo quelle donne operaie di quella generazione lì non siano abituate a raccontarsi cosa sarebbe meglio essere raccontata da un maschio, ma anche neanche a farsi raccontare, capito? Quindi sostanzialmente poi la mia mamma mi ha messo il veto. Detto questo, è vero che io ho raccontato, diciamo, la ferita grossa nella mia casa era la morte del mio babbo, perché con la mia mamma ci si vede una volta ogni 10 giorni, ogni 15. Quindi il libro è tutto, e ti dirò di più che guardando a modelli inglesi, la narrativa British working class ha spesso la tara di un pesantissimo sessismo, anche romanzi di Welsh, voglio dire, e so spesso, poi quelli sul calcio, spesso sono racconti veramente di maschi, scritti per maschi. Per fortuna non è sempre così, a partire dal libro che si citava prima, Dai piani bassi, la storia della domestica, scritta da una domestica in prima persona, cioè se voi quel libro, cioè se io fossi stata una lavoratrice donna avrei voluto scrivere un libro in questa maniera. Lì c'è una presa di parola forte, e la cosa migliore è che più che io raccontare le donne, che siano le donne operaie che raccontino se stesse, cosa che tra l'altro si comincia anche a fare, e lo considero una cosa più importante, che, anche se vorrei riuscire a raccontare bene il mondo femminile, e non è così facile perché probabilmente, cioè, mentre scrivo lotto contro anni di situazione sessista, maschilista, che comunque ho ricevuto, prima si parlava insieme di cos'era il mondo del calcio per l'infanzia, dove io sono cresciuto, che era una situazione da caserma più il maschilismo, ecco, e fare conti con quella cosa e smontarla ti ci vuole una vita. Il risultato è che poi non ti riesce forse neanche, perché non riesci ad avere la competenza di raccontare bene il mondo femminile, mentre caricaturalmente sono capace di fare la caricatura anche disprezzandola del sessismo di quel mondo lì. Quindi già qualcosa a riuscire a minare il sessismo del mondo in cui io sono cresciuto nell'infanzia. E detto questo, per esempio ci sono dei racconti working class, adesso è uscito proprio da pochi mesi un libro di un'illustratrice che si chiama Maria Luce, adesso non mi viene il cognome, che ha scritto questa cosa intitolata Al principio fu l'odore del ferro. Lei oggi è una illustratrice per ragazzi molto affermata e insegna, se non sbaglio, all'università grafica, all'università Ferrara, però per 3 anni è della mia generazione, forse un po' più giovane. Diciamo, per 3 anni dopo l'università, dopo l'accademia, ha lavorato in una piccola fonderia. Era l'unica donna a lavorare in fonderia. E ha fatto un libro che è pubblicato in una collana di libri per ragazzi, ma in realtà te lo puoi leggere anche da adulto. È bellissimo, lo trovo stupendo. L'ho letto poco tempo fa. Ed è un bellissimo racconto working class femminile, però deve essere scritto da una donna. Cioè, nel senso, se no, non posso essere io a scrivere la working class femminile. Quello che dovrei riuscire è a integrare di più, effettivamente, e lo volevo fare. In 108 metri c'è un pochino di più. Ma di nuovo, cioè, ho dovuto rifare un po' a testata con la mia mamma. Si riconosce, diciamo, il merito del ruolo della mia mamma, che quasi era scomparsa in amianto. E adesso nel passo successivo, perché devo chiudere la trilogia, e mi piacerebbe riuscire a integrare di più questo elemento, e magari coinvolgendo di più la mia mamma nella dimensione addirittura della scrittura, però perché che mi sembra l'unica cosa sensata da fare, cioè invece di raccontare io lei, visto che lei veramente per amianto la mia mamma m'ha fatto la raccolta, la cena dei materiali le fotografie, i miei ricordi, mi ha raccontato le storie, ma alla fine è quasi una coautrice che poi è volutamente scomparsa dal testo. E questo è probabilmente il risultato di anni e anni di subalternità, non tanto domestica, ma nella percezione che lei stessa aveva della cosa, questa idea di scomparire che per me è triste, però va detto che non è una cosa che aveva solo lei, ecco. Cioè. Grazie. C'è un momento, io prometto che non ho letto ancora il libro, volevo chiederti, c'è un momento dove il protagonista si rende conto che in un certo senso è tutto da rifare, mi spiego, e il protagonista è espatria, fa i lavori umili, il babbo era un soldatore, quindi una manodopera qualificata, che aveva una buona padronanza del proprio lavoro. Invece il protagonista si ritrova in un'altra terra straniera, quindi anche per letto, quindi emigrare per vedere un po' come è fatto il mondo, si ritrova a fare dei lavori molto umili. C'è un momento che il protagonista dice: oh, era meglio se facevo il soldatore, era meglio se facevo il professionale, non andavo al liceo. Sì, questa cosa c'è in Amianto, se non sbaglio, a un certo punto lo dico esplicitamente. Sai, a volte penso questa cosa qua, nel senso, delle volte dico no, ma guarda, se avessi fatto magari il professionale non mi sarei, effettivamente i miei amici avevano fatto il professionale, non avevano problemi di lavoro, diciamo, a un certo punto, oddio, non erano assunti a tempo indeterminato come i loro genitori, lavoravano magari con contratti di 6 mesi rinnovati o con l'agenzia interinale all'interno dell'acciaieria. A oggi magari io mi posso trovare a fare lavori nell'industria culturale, cioè, sottopagati, a Cottimo, sempre arrangiandomi, fa 3 o 4 lavoretti diversi, e comunque i miei amici erano andati in acciaieria, l'acciaieria oggi è chiusa, e so chi è fortunato e lavorava diretto in cassa integrazione, chi era nell'indotto, erano il grosso, e tutti quelli giovani erano assunti nell'indotto oppure attraverso le cose, e so semplicemente licenziati, punto e basta. Quindi cioè, che tu prendessi una via o che tu prendessi un'altra, alla fine dei giochi ci siamo ritrovati nella stessa, bene o male, nella stessa situazione. E, diciamo che io posso dire che ho... E ti dirò, io sono andato all'estero a... Non ho imparato una lingua, ma tanti di loro poi comunque sono andati all'estero e hanno imparato delle lingue. E quindi alla fine certo la differenza è che questa cosa di poter raccontare una storia mi pone in una posizione, ecco, ritornando a quella della mia mamma, no? Nella prospettiva di poterti raccontare senza essere raccontato, che una delle cose brutte che capita è quella di farsi raccontare, non so quanto vi capiterà, che ne so, dirle, cazzo ne so, quando c'è magari una situazione di tensione con la polizia, poi ti leggi sui giornali e dici, ma non è andata così, capito che ti voglio dire, no? Questa cosa di farsi raccontare è problematica, perché quando sei raccontato poi ti ritrovi diverso da come sei davvero, e poi quando ti racconti forse ti inganni, non lo so, perché te la racconti come ti torna, però è sempre meglio raccontare e farsi raccontare, ecco. E forse la differenza è che chiaramente lavorando poi con le parole ho avuto l'opportunità, lavorando come traduttore, di avere accesso all'industria editoriale e di poter raccontarmi la mia storia in un meccanismo che sempre è industriale, perché quella è un'industria, anche quella ha i suoi momenti di forte di sfruttamento, la sua vocazione a ripetere, la ripetitività, il lavoro domestico. Di recente ho tradotto un libro di Angela Davis, quando parla del lavoro domestico, c'erano delle parti sui lavori domestici di cura delle donne afroamericane che io ritrovavo la mia esperienza di traduttore, sembra paradossale, perché la dimensione del lavoro domestico è ti isola, ti ritrovi privo di compagni, da solo, direttamente ostaggio del datore di lavoro e così via. Quindi, non so, cioè sì, sicuramente non faccio lavori avvilenti, ripetitivi, o non faccio lavori pericolosi che faceva mio padre, però non conosco nemmeno il divertimento. Mio papà era uno andava al lavoro contento perché sapeva che con i suoi compagni si sarebbero divertiti mentre facevano un lavoro in uscita, di loro scherzavano, stavano bene assieme, si sentivano compagni, e questa dimensione è difficile averla facendo lavori separati nell'industria culturale oggi come oggi. qualche altra domanda? Se no, sì, ah, ciao. Ciao. Ciao. Volevo chiedervi proprio in merito al lavoro. Dalle esperienze che tu hai fatto così da Salega, non da deprecare perché qui dicessi, ma perché appunto così sfruttati, qual è la similitudine che trovi con un po' l'hai citato con i lavoratori stranieri oggi immigrati in Italia, e qual è appunto la similitudine che tu vedi con il lavoro nostro sfruttato, perché tu sei scrittore, io sono informatica, doveva essere l'esperienza, la grande esperienza, la grande promessa del futuro, invece io l'ho vissuta come sai con la cassa integrazione di tutti e con un'esperienza durissima perché uscita a 46 anni, cioè 46 anni a ritrovare un lavoro stabile. Quindi volevo capire l'Inghilterra della Margaret Thatcher che tu hai vissuto con la situazione che poi andava via via degradando oggi in Italia. Secondo me non divertire un'esperienza da cancellare nel mondo globalizzato sarebbe stato un esempio troppo negativo rispetto alla faccettizzazione e all'impoverimento del mondo del lavoro che si poteva creare a livello globale. Volevo sapere da te quanto c'è di questo nel tuo libro e la tua opinione, cosa non sei riuscita a mettere, cosa ci possiamo aspettare per il futuro. Sai, io ora sul futuro ho difficoltà, diciamo, a vaticinare. Sì, io intanto preciso che non sono stato in Inghilterra, nella Inghilterra della Thatcher, ma in quella di Tony Blair, che non so, che forse era pure più odiosa, si passava da un ghigno a un altro, ecco, cioè era, diciamo, l'Inghilterra del we are all middle class, ecco, siamo tutti in ceto medio, era un periodo anche abbastanza di prosperità dal punto di vista dei trend economici inglesi, e questa cosa, diciamo, che non erano così forti le logiche di conflittualità, c'erano divisioni fra, però non c'era quel forte bisogno di fare corso al razzismo che sarebbe arrivato dopo, perché io sono andato nel periodo a cavallo tra 2000 e 2002, quindi prima, cioè, diciamo, nel mezzo c'è stato l'attentato alle Twin Tower, quindi poi l'islamofobia, il razzismo sono arrivati dopo. Era un periodo di grande facilità a trovare lavoro in Inghilterra. E sostanzialmente, tipo, per i miei colleghi, il risultato era che in parte eravamo poco riattabili, e questo favoriva una forte, cioè una sorta di conflittualità negli atteggiamenti, che era per me impensabile avendo lavorato in Italia, tipo nei ristoranti italiani. Quando arrivavo in Inghilterra, tipo, certe cose ho raccontato, quello che andava a dare la pedata in culo al cuoco capo, o il fatto di, cioè, avere comportamenti assolutamente sfacciati nella maniera di rapportarsi con i supervisor, quando lavoravo con gli inglesi, cioè con noi immigrati non ce lo potevamo permettere, però con gli inglesi se lo permettevano perché sapevano che potevano trovare lavoro, diciamo, nel posto di fronte. Una delle forme di ricatto che però avevano era la questione del sistema del living in. Quindi, questo centro commerciale praticamente si lavorava vivendo nel centro commerciale, ci davano anche da dormire, quindi se te praticamente ti facevi licenziare poi dovevi magari sbatterti a trovare un altro posto, quindi il sistema del living in era un po' una sorta di ricatto, perché poi erano molti ragazzi giovani, che qualcuno era proprio, se non scappava di casa, scappava da posti in cui era cresciuto e non aveva famiglia in zona, e quindi non doveva perdersi il lavoro per non perdersi l'ospitalità. Però rispetto all'Italia la situazione era estremamente più, cioè non era una conflittualità politica, era una conflittualità di comportamenti un po' devianti, che però riconoscevano nel supervisor, nel capo, in quelli, come dicevo io, con la puzza sotto il naso, una specie di avversario, ecco. Detto questo, io mi sono sempre percepito un immigrato ormai come un expat, ecco, ma perché ero un worker, quindi non ero un, cioè ho studiato inglese ma l'ho fatto alla scuola serale per lavoratori, no? E quindi per me era facile stare dentro a quell'identificazione. Poi la mia storia personale faceva sì che mi riconoscessi molto nella parola worker, cioè avevo anche un po' il mito, io sono cresciuto con il mito del calcio inglese visto la domenica mattina davano negli anni 80 il calcio inglese su Tremotano, mi sembra, non so, e guardavo questa cosa, sembrava più bella del calcio italiano, quindi per me era avevo la mitologia della cultura working class inglese, e non avevo problemi a lavorare nei cessi perché non mi sentivo per quello umiliato, cioè mi umiliava lo sguardo del supervisor o il fatto, te l'ho detto, di non essere pagato, cioè era la disciplina sul lavoro mi infastidiva, non la mansione di per sé. Per certi aspetti ho lavorato meglio in Inghilterra che in Italia, e sicuramente eviterei come consiglio i ristoranti italiani all'estero perché sono veramente tossici, sono male. Detto questo, tutto il libro si regge, va letto come un tentativo di far saltare la logica, appunto, della narrazione dei cervelli in fuga, e come una similitudine di classe, se vuoi, tra il lavoro degli immigrati in Italia. Cioè nel finale, a un certo punto, io in questa specie di sogno onirico delle api, c'è un momento di quasi di simbiosi, di telepatia, diciamo, fra il protagonista e il padre attraverso il contatto della mano, e c'è questa metamorfosi delle api nei volti di una serie, prima dei colleghi di lavoro del vecchio e poi dei nuovi colleghi di lavoro che sono in realtà i lavoratori migranti delle campagne, o i nuovi lavoratori della logistica e così via. Però ecco, è tutto nella metafora e va letto appunto in questa chiave metaforica, come dicevi anche tu, non è che le cose, cioè non è che questa cosa viene denunciata come un fatto, è se vuoi un'aspirazione. Non so, tanto vi tedio, non vi vorrei stancare di più. Se c'è qualche altra domanda, se no ditemi voi. Volete leggo un passo per in chiusura, non so. Cosa? Ah, sì. Sì, chiudo, sì, è la chiusa del libro. A tutti voi, miei compagni britannici, devo un pezzo di quest'epica stracciona che da bardo errante ho raccontato a un pubblico inclito nella mia lingua madre, dopo avervi insegnato alcune metafore ingiuriose, presto traslitterate in arabo da uno sguattero yemenita. Miei sodali, miei fottuti compagni di lavoro, ci sarà sempre un giro di pinte che ci aspetta nel nostro vecchio pub e un campo di calcio fangoso in cui rotolarsi dopo un'entrata sporca in scivolata. Cadrò a terra senza ossessioni e timori, perché ci sarà sempre per me, nelle verdi colline d'Inghilterra, una mano operaia pronta a rimettermi in piedi. E quando mi troverò nel fango, triste come un altoforno spento, con le dita attaccate agli inguini strizzati o senza fiato, per una pallonata della vita nello stomaco, come i sogni sconvolti o crollati nel vento e nella pioggia, saprò che mi tenderete una mano per dirmi tranquillo, è il mestiere che entra. Saprò che mai camminerò da solo. You never walk alone. Grazie.